Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 16. Bigotto mi aveva scritto qualche volta, ma era da tempo che non lo sentivo, quando mi giunse una lettera dal carcere della contea di Cook a Chicago. Credo di essere sistemato ormai e che tu non debba più preoccuparti per me, scriveva. Mi sento ravveduto e non ruberò più. Se vuoi che ci vediamo in questa parte dell'inferno, ti conviene fare un salto a Chicago prima del 13 di febbraio. Hanno già diramato gli inviti per la festa che mi faranno con una bella cravatta al collo. Una mano gelida mi strinse il cuore. Otto, un assassino. Quel collo che avevo abbracciato tante volte, come poteva essere, sul punto di sentire la stretta mortale del capestro. Senza por tempo in mezzo, mi aggregai a quattro obo che avevo conosciuto all'Università dei Vagabondi e insieme abbordammo merci della Northern Pacific, che passava a mezzanotte. I miei compagni di viaggio si presero cura di me. La mamma ci aveva preparato una buona provvista di panini. Mentre attraversavamo l'Idaho, uno dei vagabondi tirò fuori di tasca una candela, l'accese, la fissò al pavimento nella parte frontale del carro e mi fece bollire una tazza di caffè. Per bere avevamo una borraccia dell'esercito. Nessuno degli uomini cercò di fare l'amore con me. Nessuno accennò al mio evidente stato di gravidanza. Per due volte, una nel Montana e una nel Dakota, il personale della ferrovia manifestò intenzioni bellicose. Desistette e si allontanò quando si accorse delle mie condizioni. I quattro erano diretti a Minneapolis, dove un'agenzia di collocamento cercava operai per una fabbrica di biscotti. Quando giungemmo allo scalo occidentale di quella città, scendemmo dal vagone, cercando di non dare nell'occhio. Con fare solenne, i miei compagni sborsarono un dollaro a testa e più tardi, prima di mettermi su un altro merci della linea Chicago della Northwestern, mi consegnarono l'ammontare della colletta. L'indomani mattina scesi allo scalo Ketzi e presi un tram per il centro. Era l'11 febbraio. Otto doveva essere impiccato il 13. Era già nella cella della morte. Poteva ricevere visite solo dai parenti. Pregai il direttore e lo sceriffo, ma invano. Un giovane giornalista di nome Hennessy mi udì supplicare e disse: «Venite, sorella, credo di potervi combinare un incontro». Sedemmo in un ristorante in Clark Street, vicino alla Grand Avenue. «Che cos'è Otto per voi e perché ci tenete tanto a vederlo?» si informò. «Siete incinta? È stato Otto?» «Siamo stati molto amici», risposi, senza sbilanciarmi. «Insomma, è il vostro amante, il padre di vostro figlio? Dovevate sposarvi?» «Sentite, se mi lasciate scrivere questa storia come voglio, vi procurerò un permesso per vederlo. Anzi, farò di più. Vi farò avere un permesso per assistere all'impiccagione». Gesù, vedere Otto impiccato. Mi sentivo come se mi avessero colpito con un martello, ma sapevo che sarei andata se quell'uomo avesse mantenuto la sua promessa. In meno di un'ora Hennessy tornò con un permesso e mi condusse alla prigione. Entrammo da un grande cancello di ferro e fui perquisita nell'ufficio del carcere. La vice del carceriere, una sorvegliante e Hennessy mi precedettero ed entrarono nel deposito dei vestiti e degli effetti personali, attraverso una porta di ferro. Poi varcarono un'altra porta di ferro. Passammo davanti alla prima fila di celle, salimmo una scala di ferro Percorremmo un ampio corridoio ed entrammo in una grande stanza sul lato frontale dell'edificio. Aspettate qui, signorina Thompson. Andiamo a chiamarlo. Otto arrivò dalla cella della morte, ammanettato tra due guardie. Quando entrò nella stanza, tesi la mano per salutarlo. Era molto pallido e aveva qualche capello grigio in più, ma per il resto non era cambiato affatto. Ciao bella, come stai? Fermi così, disse il fotografo. Sbrigati a scattare, lo esortò Hennessy. Voglio che ne fai una a Otto che tiene la Thompson tra le braccia. Era troppo sconvolta per protestare. Il fotografo scattò mentre ci stringevamo la mano, mentre ci abbracciavamo, mentre ci baciavamo. Feci tutto quello che Hennessy mi chiese. Non mi importava di nulla. Dimmi, Boxcar, come va? Si informò Otto, cercando di apparire naturale. Che cosa fa tua sorella? Hai più visto qualcuna della vecchia banda? Ma non potevo chiacchierare del più e del meno con lui. Otto, non hai paura di morire? Mi sentii di chiedere, l'idea di essere impiccato non ti sconvolge? Beh, non mi hanno ancora impiccato, ribatté. Finora mi è andata sempre bene. I miei avvocati sottoporranno il caso alla Corte Suprema e credo che il governatore sospenderà l'esecuzione. Non darti mai per morta, Berta, finché non lo sei veramente. Io me la sono vista brutta un sacco di volte, ma finora sono riuscito sempre a farla franca. In questo mestiere si va a fortuna. Poi abbassò la voce a un bisbiglio. Di la verità, Berta, stai per avere un bambino? Chiese. Poi aggiunse: Ti prego, di che è mio? Mi vennero le lacrime agli occhi. 1.500 uomini soli. E ora uno che avrebbe potuto essere davvero il padre di un figlio mio. Uno che stava per morire. Mi chiedeva di dire che il bambino senza nome che avevo nel ventre era suo. Chi mai potrà far luce nel cuore travagliato degli uomini? Quale donna potrà mai dare loro conforto? Ma volevo che mi dicesse di sé. Dimmi, Otto, che cosa è successo? Non ho letto quasi mai i giornali. Come ti sei ficcato in un pasticcio del genere? Non ho mai pensato che tu fossi un ladruncolo da strada, un rapinatore. Ti credevo un ladro di classe, un ladro gentiluomo. Con insolita discrezione le guardie si erano allontanate, lasciandoci per un momento soli in un piccolo mondo tutto nostro. Lo ero, disse, ma mi sono lasciato trascinare dall'ambizione. Se avessi continuato a lavorare come mi aveva insegnato mio padre, tutto sarebbe andato per il meglio. Vedi, Berta, anche nel nostro mestiere ci sono degli alti e bassi, e da quando tu mi hai lasciato non sono riuscito più a combinare granché. Non ho avuto più il coraggio di rubare. Ma mi mancava l'esperienza per lavorare. Non avrei mai immaginato, Berta, che una donna potesse lasciare un uomo e portargli via tanto come hai fatto tu. Gesù, piccola, io ti amavo. Sei stata l'unica cosa che ho amato davvero. Non volevo più vivere senza di te. Mi sono messo con una banda di ladruncoli dilettanti di mezza tacca, soltanto perché pensavo che così mi avrebbero fatto fuori, oppure sarei finito sulla forca. Vedi, bella, mi hai stregato. Hai fatto in modo che non riuscissi più a trovare piacere nel furto. Che cosa vuoi che ti dica? È stata soltanto una stupida bravata da cowboy ubriachi, quella che abbiamo fatto. Stavo in una pensione in West Madison Street e gli altri ragazzi della banda erano andati a farsi un paio di litri di vino. Uno di loro aveva lavorato come aiuto cameriere all'Hotel Drake. Ecco cos'erano. Pidocchi, ladruncoli, aiutocamerieri. Credo che in vita loro non avessero mai fregato altro che ombrelli e zerbini. Eravamo tutti sbronzi e uno, che era mezzo cotto, saltò su a dire: Io so come possiamo mettere le mani su 15.000 dollari, sarà un giochetto. Ho lavorato all'Hotel Drake e il 5 e il 20 del mese sono giorni di paga. La busta con le paghe è di 15.000 dollari. Ci occorrono soltanto cinque uomini, sarà un giochetto. Non so come diavolo mi sono impelagato con Con questi pivelli, ma ubriachi fradici come eravamo, ci siamo procurati un paio di rivoltelle e siamo andati all'assalto come tanti Jesse James. Abbiamo ammazzato il cassiere. Due della banda sono morti. Uno è riuscito a scappare. Woods e io siamo stati presi prima ancora che uscissimo dall'albergo. Tutto qui. È stata soltanto una storia ghiotta per i giornali e un'altra dimostrazione del fatto che quel vinaccio da quattro soldi è meglio lasciarlo perdere. Otto continuava a guardarmi come se i suoi occhi non riuscissero a saziarsi di me, e quando dovetti andare mi sussurrò di nuovo: Dimmi, è vero che avrai un bambino? Ti prego, bellezza, di che è mio. Hennessy fece in modo che potessi vedere Otto un'ora prima dell'esecuzione e mi procurò un permesso per assistere all'impiccagione. Un'ora prima che lo Stato si prendesse la vita di Otto, mi trovai davanti alla porta della sua cella e gli presi la mano. Impazzivo dalla voglia di dire qualcosa di utile, di fare qualcosa, e non volevo che Otto vedesse quanta paura avevo. Com'è il tempo là fuori, Berta? Sembrava che fosse in attesa di udire qualcosa. Otto, vorrei che tu facessi qualcosa per me, dissi, cercando di distrarlo. Vuoi? Ma certo, bellezza, tutto quello che posso. Va bene, tra circa 40 minuti dirai: Buongiorno, Dio. Non potresti cogliere l'occasione per dirgli qualcosa? Prima di tutto, digli che ti amo, che è terribile che lo Stato ti impicchi e che è stato orribile da parte tua uccidere un povero lavoratore. Poi chiedigli se non può fare qualcosa per impedire che gli uomini si ammazzino a vicenda, e chiedigli anche se non può mettere le cose in modo che sia più facile essere onesti che criminali. Mi sentiva, ma stava ascoltando anche qualcos'altro. Cercavo di scherzare per impedirgli di pensare in quegli ultimi istanti. Otto, sarà vero che dall'altro mondo si possono trasmettere fin quaggiù pensieri e idee? Tu penserai a me? Cercherai di dirmi come si fa a capire le persone come te? Come si fa ad aiutarle? Ma era tutto inutile. Improvvisamente mi gettai contro le sbarre per essergli vicina e gli gridai di baciarmi, di farmi male. Udii la mia stessa voce che urlava senza ritegno. Mordimi, fammi male, fa che ti possa sentire quando non ci sarai più. Allora mi guardò con affetto e compassione e cercò di rincuorarmi. Coraggio, piccola, disse, non tocca a te andartene. Poi vennero le guardie e mi portarono via. Alle 7 in punto i 150 spettatori autorizzati ebbero accesso al pian terreno del carcere. Una forca provvisoria era stata eretta all'interno. Tutte le celle che guardavano da quella parte erano state evacuate e i detenuti che le occupavano erano stati trasferiti in un'altra ala del carcere. Arrivano. Lo sapemmo prima ancora di sentirli. A testa alta, con la sigaretta in bocca e le mani ammanettate dietro la schiena, i condannati a morte avanzarono verso il patibolo. Percorse rapidamente la folla con lo sguardo, mi riconobbe, fece un cenno col capo e torse le labbra in un macabro sorriso. Era ancora in ascolto, sapevo che cosa stava pensando. Era certo che da un momento all'altro la porta si sarebbe aperta e sarebbe arrivato un fattorino con un telegramma che annunciava la sospensione dell'esecuzione. Finora era sempre riuscito a farla franca. Aveva servito nell'esercito per oltre un anno ed era stato in prima linea, in trincea per 6 mesi. Le pallottole, le bombe, i gas tedeschi l'avevano risparmiato. Poliziotti e sorveglianti gli avevano sparato addosso decine di volte e nelle risse tra ubriachi era stato preso di mira da pistole e coltelli, ma se l'era sempre cavata senza gravi danni. Dal suo sguardo capivo che era sicuro di farla franca anche questa volta. Stava ancora ascoltando quando le guardie gli legarono i piedi e coprirono la testa con un cappuccio bianco che scendeva fino in vita e gli misero il cappio intorno al collo, con il nodo di dietro. Tutto era calmo, ordinato. Flop! La botola si aprì ed egli penzolò nel vuoto. Otto penzolava nel vuoto. Mi sforzai di ricordarlo come era stato con me. Cercai di rammentare il suo viso prima che il cappuccio lo coprisse, ma non ci riuscii. Mi tornavano in mente continuamente soltanto i versi di Oscar Wilde. È bello danzare al suono del violino, quando l'amore e la vita ci sorridono. Danzare al suono dei flauti, danzare al suono dei liuti, è dolce e meraviglioso. Ma non è bello, con agili piedi, danzare per aria. Poi, lì, nella grigia prigione, mentre le figure incappucciate di bianco oscillavano sempre più lentamente, sentii muoversi per la prima volta il bambino che portava in corpo. Libri ribelli. Libri ribelli.